con Mariuccia Ciotta, coautrice del libro Bambole perverse, le ribelli che sconvolsero Hollywood, che sarà presentato a Roma, Sentieri Selvaggi, giovedì 9 maggio 2019. Mariuccia, ben trovata. Grazie e buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Sì, dunque questo libro è nato con l'idea non tanto di risarcire attrici e cineaste dimenticate dalla storia del cinema, ma all'ambizione di riscriverla in qualche modo la storia del cinema attraverso la rilettura degli stereotipi che queste attrici, queste dive decostruiscono con i loro corpi, sia dentro sia fuori nel film. Infatti ci siamo occupati sia delle dive e sia di sceneggiatrici, registe, produttrici. Che tipo di ricerca è stata? Dunque, considera che questo lavoro è frutto di ricerche durate anni, perché attraverso il lavoro che abbiamo fatto al manifesto, io e Roberto Silvestri abbiamo, come dire, accumulato moltissimo materiale. Abbiamo lavorato sul divismo e quindi appunto è questo lavoro di ricerca e soprattutto anche una raccolta di immagini inedite che noi abbiamo registrato al Festival del Cinema Muto di Pordenone, alle giornate del Cinema Muto di Pordenone, che sono una fonte inesauribile e di coperte. Lì si riscopre e si riscrive la storia del cinema. Infatti il nostro libro parte dal muto, dal cinema muto, da Mary Pickford e arriva alla modernità attraverso l'analisi di attrici che in qualche modo richiamano quello stereotipo. Infatti noi parliamo, cioè, da Mary Pickford, da Tilda Swinton, da Dorothy Arden, da Catherine Bigelow. Sono attrici e cineaste che Mary oggi hanno fatto esplodere generi, canoni e stereotipi. È fatto della diva in qualche modo un soggetto eversivo. Quante sono le donne del cinema che avete preso sotto esame? Dunque, 8 sono le categorie. Le categorie appunto sono molto arbitrarie, ovviamente. Sono delle categorie che ci siamo un po' inventate. Piccola donna, funny girl, dark lady, androgina, femme fatale, popcorn Venus, super donna, mutante. Quindi in qualche modo abbiamo fatto percorso anche la storia in senso cronologico, perché partiamo dal muto, ma in ogni capitolo noi citiamo più attrici, più nomi, più cineaste che hanno a che fare appunto con il passato, ma che sono anche presenti oggi. Per esempio, La piccola donna inizia con Mary Pickford, ma fa un riferimento a Emma Watson come in qualche modo l'incarnazione della innocenza che Annie Pickford rappresentava e che nasconde però una grande forza, la forza dell'innocenza della bambina che si oppone a un mondo anche di uomini, di appunto un mondo che è dominato da una morale che loro contestano. Ecco, nel corso dei decenni che tipo di trasformazioni avete individuato? Dunque, gli stereotipi in qualche modo persistono, nel senso che sono ancora categorie che possono, a cui si possono iscrivere anche le attrici di oggi, perché questi stereotipi sono molto duri a morire, sono stereotipi che vengono dalla letteratura e quindi hanno insomma, un passato molto radicato. Certo ci sono delle trasformazioni. Un capitolo conclusivo è quello della mutante e che a me interessa particolarmente perché è quella che rappresenta di più questo slittamento da un ruolo all'altro, questa mutazione che è anche una mutazione fisica. Parlo di Motoko, di Ghost in the Shell e di Scarlett Johansson che la interpreterà in un film live, dove proprio c'è quest'idea della donna che rompe gli argini del genere, no? E diventa qualcos'altro, diventa anche macchina, diventa anche uomo, diventa qualcosa che non è più definibile come donna nel senso appunto dello stereotipo che l'ha ingabbiata per tanto tempo. Ecco, ci hai parlato delle categorie, come è strutturato nel complesso il libro? E come ti dicevo, sono Ok. otto capitoli intitolati così come avevo detto, in ogni capitolo noi citiamo alcune attrici, tu mi chiedevi quali sono i nomi, non so, nella piccola donna, oltre a Mary Pickford c'è Lillian Gish, c'è Alanis, che a me piace moltissimo e che non fa parte del mito, del muto ovviamente, ma è una attrice degli anni 50-60 ed è un'attrice disneyana che appunto rappresenta questa piccola donna, questa piccola pestifera donna che non so se ti ricordi Pollyanna, che è una bambina che appunto Sì. mette ordine nel disordine, anzi diciamo che mette disordine nell'ordine. Poi mi piaceva qui ricordare che all'origine della piccola donna, per esempio, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie. Abbiamo pensato anche a prendere in considerazione dei personaggi che non sono nemmeno di carne e ossa, come Jessica Rabbit, per esempio, per la Femme Fatale. Per la Femme Girl, la principale è sicuramente Clara Bow. Clara Bow è la maschietta, la ragazza con un certo non so che uscita dalle pagine di Fitzgerald, è la maschietta, la donna che irrompe, no, sulla scena degli anni 20 e sconvolge appunto tutto il bon ton vittoriano. Parliamo anche di Marion Davis e oggi abbiamo individuato Meg Ryan come la Funny Girl. E in questo capitolo c'è un'interessante invece origine delle tipologie che è la Nasty Woman, che è un tipo di interprete che si conosce molto poco, che l'abbiamo visto appunto a Letteratura del Cinema Muto di Pordenone, che sono delle ragazze degli anni 10, pestifere tremende, che distruggono le cucine, fanno scherzi atroci, sono così selvaggio contro gli uomini, li fanno a pezzi, cioè tutto questo però con un tono umoristico. Proprio queste Nasty Woman sono sicuramente all'origine poi di le Funny Girl, che invece hanno una presenza molto forte negli anni 20. Poi la Barclay c'è Barbara Stanwyck, Rita Hayworth. Oggi abbiamo pensato che forse era Eva Green quella che più rispondeva al tipo. Poi non so, l'androgina. Nell'androgina abbiamo cercato di smontare il mito di Greta Garbo, la divina, e di invece annoverarla tra le attrici che questo passaggio del genere lo fanno già molto chiaramente, cioè il travestimento, l'essere già tra uomo e donna, anche questo vale per Marlene Dietrich. Oggi abbiamo pensato che potesse essere Kristen Stewart, questa donna, no? Che fluid gender, come si dice. Poi la Femme Fatale, Liz Brooks, Paola Negri, Jean Harlow, Ava Gardner, Popcorn Venus, Doris Day, Shirley MacLaine, Marilyn Monroe, Julie Holliday, Winona Ryder oggi, la superdonna sono le donne un po' di Rosemeyer, Tilda Swinton, all'origine abbiamo parlato di Pearl White, un'attrice molto importante, semi sconosciuta, che era una specie di atleta incredibile, avventure, acrobazie, pazzesco. E poi c'è la votante che, come dicevo, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e altre. Facendo questa ricerca, c'è un ritratto o alcuni ritratti che ti hanno impressionato in particolare? Quello che forse mi ha più colpito erano quello che ti dicevo, le Nasty Woman, perché queste sono ragazzine adolescenti che hanno una furia totale nel reagire a un ordine maschile che è impressionante, perché sono veramente feroci. Eppure il tono di questi cortometraggi comici sono appunto toni allegri, ma le azioni che compiono queste ragazze sono veramente incredibili. E questi sono film che non si vedono, non si sono visti, e che molto di questo cinema del muto è stato distrutto, non è più, non si riescono più a vedere questi film. E quindi rimangono queste tracce, no, di personaggi dimenticati. Poi forse il personaggio che più è importante in questa analisi è sicuramente quello della Dark Lady, che era donna degli anni 40, e secondo me questo tipo di donna segna, insomma, c'è un prima e un dopo la Dark Lady. Tutto cambia quando arriva questa donna con la pistola, che negli anni 40 appunto è la donna che fa paura agli uomini, che ha preso il posto degli uomini che sono sul fronte a combattere. E quindi è una donna che fa paura, che è snaturata, non è più una donna secondo i canoni, e verrà uscita perché è incompatibile con il mondo così com'è. In chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più del libro? Dunque, su internet c'è una grande novità per quanto riguarda la capacità, appunto, la possibilità di vedere dei film, e che molti film sono su YouTube. Molti film, qualcuno durante la presentazione del nostro libro ieri qui a Firenze ha detto dovete leggere il libro vicino a un computer, perché ogni volta che noi citiamo qualcuno sarà il caso di andarlo a vedere. E allora molte delle cose che dicevo abbiamo visto a Pordenone si ritrovano su YouTube, perché sono anche cose che sono scadute dal punto di vista dei diritti. Questo aiutano molto perché si vedono i volti, i corpi, di attrici che sono state dimenticate, che non troviamo più nelle storie del cinema o che sono state travisate. E allora ricordiamo la presentazione del libro Bambole perverse, le ribelli che sconvolsero Hollywood a Roma, a Sentieri Selvaggi, giovedì 9 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Mariuccia Ciotta. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, ciao, arrivederci, Ciao. ciao, ciao.